L'albero orgoglioso. C'erano una volta due alberi proprio nel centro di una foresta. Uno era un albero di fico e l'altro era un albero di mango. L'albero di mango era gentile e allegro per natura. Ogni autunno gli uccelli venivano a beccare i suoi frutti. I passeri costruivano nidi fra i suoi rami e le rondini cantavano per lui. L'albero accoglieva felicemente tutti gli uccelli e cantava con loro. Era un albero generoso. Offriva ombra ai passanti e si divertiva ancor più forte quando il vento gli faceva visita. L'albero di fico, invece, non era affatto generoso. Stava sempre troppo attento al suo aspetto. Era troppo orgoglioso di essere più alto e più verde dell'albero di mango. Non permetteva mai agli uccelli di posarsi sui suoi rami e lasciava cadere foglie secche su chiunque volesse sedersi sotto la sua ombra. «Di cosa sei così orgoglioso? Ogni albero ha la sua ombra!» «Davvero? Allora perché devono sedersi sotto la mia di ombra? Tu lo sai perché? Perché non tutti gli alberi hanno un'ombra grande come la mia!» «Ah, parlare con te è inutile!» «Ehi, va via! Via dall'albero di mango, laggiù! Mi state spettinando i capelli!» «Non hai i capelli!» «Va bene! Allora state spettinando le mie foglie! Sei felice ora?» «E dai, fico! Vogliono solo costruire un nido! Non lasci mai che gli uccelli si siedano su di te! Sono belli! E cantano canzoni melodiose!» «Canzoni noiose! E per favore, non permetterò a nessuno di avvicinarsi alle mie foglie! Rovineranno i miei bellissimi rami! Puoi lasciare che si siedano su di te! Sei più basso di me e non sei nemmeno così bello!» «Ehi, ma senti, è una cosa molto cattiva da dire, fico!» «Oh, va bene, venticello, non mi hai ferito. Essere bassi non è una cosa brutta. Sono felice per quello che sono.» I giorni passarono e nulla cambiò tra l'albero di mango e quello di fico. L'albero di mango continuava a sorridere e a cantare tutto il giorno, mentre l'albero di fico non parlava con nessuno. Un giorno, uno sciame di api da miele entrò nella foresta. L'ape regina notò l'albero di fico e ne rimase molto colpita. «Oh, questo albero è grande e forte! Sarebbe perfetto per la nostra casa! Possiamo costruire il nostro alveare qui!» «Mi scusi? Chi ha detto che potete? Non voglio il vostro miele appiccicoso sui miei rami! E poi ronzereste tutto il giorno! Ho cose migliori da fare!» «Sei un albero, fermo in un punto in una foresta. Cosa intendi per avere cose migliori da fare?» «Ad ogni modo, non porterai quei piccoli ronzatori rumorosi qui!» «Fico, sono le api del miele. Le api da miele sono importanti per la natura. Avranno sempre bisogno di alberi per costruire i loro alveari. Se non ci aiutiamo a vicenda, in che modo la natura rimarrà in equilibrio?» «Ah! Se la natura aveva in mente di far sì che i miei rami si rovinassero, non mi avrebbe reso così forte e bello! Sono una meravigliosa creazione della natura, quindi mi conserverò bello proprio per il bene della natura! E perché mi stai dando una lezione? Se ti importa della natura, fallo tu! Lascia che queste api costruiscano un alveare su di te! Ora, se mi vuoi scusare...» L'albero di mango rimase molto ferito dalle parole dell'albero di fico, ma decise di non reagire. Chiamò invece lo sciame di api e chiese loro di costruire un alveare sopra i suoi di rami. «Oh, sei così generoso, mango! Ci piacerebbe costruire il nostro alveare!» Hai un odore così dolce. Grazie, mia regina. Sono onorato. Le api costruirono il loro alveare sull'albero del mango e lì vissero pacificamente. L'albero di mango non era disturbato dal loro ronzio o dalla viscosità del miele. L'albero di fico, invece, da parte sua, continuava a urlare contro tutti. Ehi, il vostro cinguettio mi dà fastidio! Abbassate un po' il tono! Voi uccelli siete così allegri! Dovete sempre cantare? Dopo un poco diventa solo una seccatura! Qualche settimana dopo, due boscaioli andarono nella foresta. Avevano bisogno di legna per costruire case. Videro l'albero di mango e decisero di abbatterlo. Era davvero perfetto per il loro lavoro. Ma uno di loro si accorse di qualcosa. Aspetta, cos'è quello? È un alveare! Le api da miele ci pungeranno se taglieremo quest'albero! Oh, sì! Troviamo un altro albero di mango! I boscaioli andarono avanti e videro il fico. Rimasero colpiti dall'altezza di quest'albero. Iniziamo dalla parte più bassa del suo tronco. E così i taglialegna iniziarono a tagliare il fico. Il fico cominciò a piangere. Non voleva lasciare la foresta. Improvvisamente sentì la mancanza degli uccelli e delle rondini. Oh, mi fanno male! Cosa ne faranno di me? L'albero di mango stava osservando tutto questo. Chiamò così le api da miele. Ehi, api! C'è nessuno qui? Ciao, Mango! Che succede? Il fico è nei guai! Dobbiamo aiutarlo! Oh, per favore! Si preoccupa solo di se stesso! È sempre arrabbiato con tutto ciò che è nella foresta! Perché dovremmo aiutarlo? Per la stessa ragione per la quale ho chiesto a lui di aiutare te! Ma non ha aiutato la regina. Sono d'accordo con l'ape su questo, Mango. Fico è sempre così orgoglioso di sé. Se avesse lasciato che le api costruissero l'alveare su di lui, i taglialegna lo avrebbero lasciato in pace. Questo è ciò che si merita. No, Venticello. Quale che sia il modo in cui Fico si è comportato, noi non faremo lo stesso. Solo perché qualcuno scortese con noi, non significa che dovremmo comportarci allo stesso modo. Questa foresta è la casa di tutti noi. Non possiamo abbandonare Fico nel momento del bisogno. Ah, Mango ha ragione. Dobbiamo aiutare Fico. Venite fuori! Ronzatori, l'albero di fico ha bisogno del nostro aiuto! Tutte le api uscirono dall'alveare e volarono verso i taglialegna. Cominciarono a ronzare vicino alle loro orecchie e davanti ai loro occhi. Ah! Non riesco a vedere nulla! Che cosa hai detto? Non riesco a sentire niente! Dobbiamo andarcene da qui! Queste api ci punzecchieranno! Sarà doloroso! Smetti di urlare! Tu sei quello che non riesce a sentire, non io! Andiamo via da qui! Dopo che i boscaioli se ne furono andati, il fico si sentì molto in imbarazzo per il suo comportamento. Sono così dispiaciuto, api! Siete le migliori per avermi aiutato, nonostante il modo in cui mi sono comportato. Fico, non ringraziare noi. Ringrazia Mango. Non hai mai parlato con lui e lo hai sempre trattato sgarbatamente. Ma è lui che ci ha convinto a darti una mano. Davvero? Mango, mi dispiace molto. Ho capito il mio errore. Tutti abbiamo buone qualità in noi. Siamo tutti speciali a modo nostro. Non sarò mai più altezzoso e non insulterò più nessuno di voi. Per favore, perdonatemi, tutti voi. L'albero di fico aveva imparato la lezione. Da quel giorno in poi non urlò più al venticello o agli uccelli. Cantava con l'albero del mango e lasciava che i passerotti costruissero nidi sui suoi rami. L'albero di mango e l'albero di fico rimasero per sempre migliori amici.